Lupon Air, Summersburgo. Thank you. Siamo ritornati con Lupo Nero Samespurgo, la prima puntata, no, l'ultima di agosto. Ce ne saranno ancora altre pochine perché poi inizieremo con Lupo Nero, quello vero, dal Radio FM con la voce di Vanni e di Flammi, che non ci saluta solamente all'inizio ma sarà proprio lì presente. Poi chissà, continuerà con Autumnspurgo, Winterspurgo, non lo so, lo scopriremo solamente vivendo, come diceva il poeta. E nel frattempo abbiamo ascoltato, per iniziare questa puntata, i Sensu Enemy da Madison, Wisconsin, una band di dark wave con capitanata da una bella voce femminile, quella di Jay, e sono al terzo album. L'ultimo si intitola The Awakening. Da questo album abbiamo ascoltato il brano The Last Breath. Ora passiamo ad altro, con una band heavy metal che viene dalla Grecia, la Chrysopolis. Sono i Malleus, scritto cioè, con la grafia così, per Malleus, che vuol dire martello. Infatti l'album si intitola The Hammer. Simpaticissimo metal classico, da cui ascoltiamo il brano Black Abyss. Deeper in Lupo on air, Summersburgo. Gustosa la discoteca propostaci dai Cardinal Noir, sono un duo di IBM industrial finlandese da Lappeenranta. Penranta per l'esattezza, e questo è il loro ultimo singolo, Kill Shelter. Cioè, dall'ultimo singolo Kill Shelter non abbiamo ascoltato Kill Shelter, che è il brano principale, ma è praticamente il lato B, che è un remix fatto da Protectorate del brano Gun Metal, che è questo che abbiamo ascoltato, Gun Metal Protectorate Remix di Cardinal Noir. Ora passiamo di nuovo ad altro, perché qui saltiamo di palo in fregna con regolarità, con i Cindy Lee. In questo caso palo in fregna è un po' fuorviante, sembrerebbe anche sarcastico, perché si tratta di la band di una drag queen, cioè Patrick Flegel, che si sempre in drag, già lì frontman, front coso dei Women, dal Canada, e adesso c'è questo progetto da un po' che si chiama Cindy Lee, ed è bello, è pop, è strano, dall'ultimo album Diamond Jubilee Cindy Lee, ascoltiamo il brano Lockstep. Oh, Luponer, Summerspurgo. Quelle robe odiose da Berlino, super hipster, che dice: ma dai, veramente? Ebbene sì, mi piace. Sono un duo da Berlino, Persia, Arthur Casa dei Paria e Jamie Roberts dei Blauwen. Sentite i nomi molto berlinesi, Jamie Roberts. Dal loro ultimo album, Sleep Well, abbiamo ascoltato un brano intitolato Medieval Soap from the Milk Bar. Veramente così, veramente odiosi, però bello, però odioso ma bello. Chissà, saranno odiosi e belli pure i Workless Academy. Sono una band di pop punk rock da Recanati che hanno da poco realizzato un nuovo EP che speravano non se ne accorgesse nessuno e invece me ne sono accorto io. Il titolo dell'EP è Orizzonte degli Eventi, e mentre il brano che ascoltiamo è Primavera di nuovo, Workless Academy. Non sto impazzendo, è un mondo nuovo ed io non lo so, non lo conosco e aspetto qui la fine ormai. Poi non ci sei. Lupo Nero, Summerspurgo. Questo piacevolissimo effetto Cotton Fioc ci è stato garantito da Wired Faded, un duo di donne in cazzerecce da Leipzig, Germania, capitanato da Misha, che è una, insomma, che si diverte proprio a far casino con qualsiasi cosa che si para davanti. C'ha diverse formazioni, insomma, deliranti, tipo Der Verloren Faden, No Pain No Gain, ma è quello che abbiamo ascoltato, era Wired Faded. Il titolo del brano era Good, ma perché? C'è un perché? Sì, perché è una roba. Cioè, come spiegarvi? L'album da cui è tratto si intitola Shrovetide Sessions ed è il titolo, cioè i titoli dei brani compongono una frase che è Only Good Killer is a Painkiller. E questo brano che abbiamo ascoltato era il terzo, che ne è Good. Così, fai simpatiche queste qua. Wired Faded. E ora invece, ora basta, simpatia. Cioè no, simpatia lo stesso, dai, sì. Da Torino, Crystal Pussy. Crystal Pussy, nonostante quello che pensiate, perché siete dei sporcaccioni, si fa riferimento a un micetto di cristallo. È un progetto sì, surreale di ambient, non ambient, noise free, che viene da Torino, appunto, e dall'album Audio Grill ascoltiamo il brano China. Thank you. il rock and roll, o meglio, in questo caso possiamo dire, sì, possiamo dirlo che black metal, sì, è black metal, da Norvegia, da Trondheim per esattezza. Questo, i Holdom Rife, sono un progetto solista di Vitale Vil, all'anagrafe, come si chiama? Adesso andiamo a scoprirlo. Vegard Itterdal Larsen, del 1978. Holdom Rife, da un po' si fanno notare, questo è il loro quarto album, Den Vrede Macht, da cui abbiamo ascoltato il brano Evidence Ret. Non vi sto a tradurre i titoli, perché non potreste capire, okay. Ora, ma non potreste capire sicuramente nemmeno i titoli, o meglio, neanche i nomi, quello che c'è scritto sulle carte d'identità dei Melt Banana, perché sono una band di noise rock leggendaria dal Giappone, tra noise rock e hardcore punk, perché cioè, fondamentalmente noise velocissimo con parti industrial e sperimentali elettroniche. Dopo anni e anni e anni si sono fatti sentire di nuovo con un album intitolato 3 più 5, direi 8. Ottimo direi. E da quest'album ascoltiamo il brano Hex. Loro sono i Melt Banana. Redivivi Melt Banana. Ciao. Yeah. ho scoperto che esiste una versione lo-fi della dark techno grazie a Evil Dust da Londra, UK. E il brano che abbiamo ascoltato era Ego Death, isso era Evil Dust, e questo tutto ciò, questa bella cornicetta, è Luponair Summer Spurgo, che tornerà giovedì prossimo, che sarà il a occhio 5, cioè, sarà veramente 5 settembre. E niente, vi salutiamo. Vi saluto io, vi saluterà pure Frami quando arriverà un giorno, e vi lasciamo con un brano di Sam Snitchy, che è una specie di piccola superstar di Berna, che da tempo infesta la Svizzera con le sue musichette anti-dance, così viene presentata, e la Voodoo Rhythm, leggendaria etichetta svizzera, propone un suo album che si intitola Bluzol? No, lo so, si intitola Talking di Sam Snitchy, e da questo brano ascoltiamo il brano You Shall All, e niente, alla prossima puntata di Luponair Summer Spurgo. I wanna thank everyone who believed I'm unique. I wanna thank everyone who put some trust in me. I wanna thank you for all your support. Thank you about you. To all you gods who were willing to feed me, to all you judges who told me to see it, thank you, praise for you all. Lupo Nero Summerspurgo.